Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Dovremmo anche ripensare alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire ad esempio come incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e affollamento. Il governo finanzi l'acquisto di biciclette elettriche. È una soluzione, una delle soluzioni. Prepararci a dei mesi complicati in cui la mobilità gradualmente andrà a crescere nelle città e sarà probabilmente una mobilità molto su auto. Il nostro timore è che i cittadini si riversino sul mezzo tradizionalmente nell'ultimo secolo utilizzato per muoversi in città, ovvero la macchina, creando una congestione ancora peggiore, se possibile, di quella che abbiamo visto negli ultimi anni. C'è sempre stato in mezzo al traffico di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona? In mezzo al traffico della grande città, io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti in bici verso la ripresa, la fase 2, la fase 3, insomma la bici che vuole giustamente essere protagonista della mobilità, soprattutto in ambito urbano, quando ricominceremo a spostarci liberamente, quando molte persone per timore dei contagi sui mezzi pubblici potrebbero optare per l'auto privata. Insomma, il rischio è quello che in assenza di interventi adeguati le nostre città vengano invase dalle macchine. E pensate che già prima del coronavirus in Italia il tasso di motorizzazione era di più di 60 auto ogni 100 abitanti, insomma in testa alle classifiche europee. Abbiamo ascoltato la voce del Premier Conte, del sindaco di Milano Beppe Sala, qualche riferimento da parte della politica all'uso di mezzi alternativi, ma questo dibattito, al di là poi delle misure che possono essere adottate per i mezzi pubblici, è portato avanti in questi giorni soprattutto il dibattito sull'uso di mezzi alternativi dalle associazioni ambientaliste, da quelle che promuovono una mobilità sostenibile e attiva. Le associazioni che hanno scritto una lettera in questi giorni al Premier Conte, Paolo Bellino, fondatore di Salva Ciclisti, e poi Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Le nostre proposte, che sono quelle di un'implementazione, come si sta facendo già negli altri paesi, già da subito, della mobilità nuova, in cui il distanziamento sociale è effettivo ma non occupa lo spazio che occupa quello dell'automobile. Quindi non solo ciclabilità ma anche le altre forme di micromobilità. Pensiamo che sia il momento giusto per scegliere al bivio quale strada prendere, se implementare l'uso della macchina, come chiede giustamente dal loro punto di vista l'industria automobilistica, o cambiare effettivamente il modo di stare al mondo. Se non è proprio a costo zero, a costo veramente limitato, la creazione di una rete ciclabile emergenziale per favorire lo spostamento su un mezzo non impattante anche dal punto di vista dello spazio e distanziante socialmente con la bicicletta. Noi chiediamo una politica in ogni città per rendere sicuri i passaggi sui mezzi pubblici. Servono però anche dare delle alternative sostenibili, per esempio permettere alle persone di andare in bicicletta sicuri. In queste settimane in tutte le città d'Europa e del mondo, da Montpellier a Bogotà, Vancouver, Nuova Zelanda, ovunque si sta progettando e realizzando delle piste ciclabili provvisorie, che quindi per mesi saranno semplicemente disegnate con piccole protezioni per permettere alle persone di girare in bici senza problemi. Ci sono delle risorse nella legge di bilancio per le piste ciclabili e nel decreto clima per i buoni mobilità. Una persona può rottamare il proprio mezzo privato e avere un bonus da utilizzare sui mezzi pubblici o per acquistare i bike o biciclette. Ovviamente servono delle risorse in più se vogliamo fare in modo che questa prospettiva sia davvero alla portata di tutti i comuni, e per questo chiediamo delle risorse al governo, ma soprattutto un'attenzione che oggi il Ministero delle Infrastrutture fino ad oggi non ha avuto. E allora sentiamo cosa risponde il governo alle richieste delle associazioni, il sottosegretario trasporti Salvatore Margiotta. Per fortuna non siamo all'anno zero, noi riprenderemo prima o poi a ragionare alla Camera dei Deputati, perché è incardinato lì la legge sul codice della strada. Lì stiamo pensando a tutta una serie di facilitazioni per i monopattini elettrici, per le biciclette, per i ciclomotori, per la cosiddetta sharing mobility in senso lato. Poi abbiamo un'industria, quella dei ciclomotori e delle biciclette, per la quale quella italiana è all'avanguardia rispetto alle altre, e abbiamo anche la fortuna, tra virgolette, che la fase 2 riparte nella stagione estiva, che inevitabilmente incentiva molto di più l'uso delle biciclette, dei ciclomotori, dei monopattini elettrici e così via. Che cosa può fare il sistema paese? Certamente ulteriormente incentivare, io penso che qualche incentivo, intendo economico, all'industria che vende biciclette per poter magari abbassare i prezzi all'utente. Ma anche nel decreto di aprile ci potrebbe essere, secondo lei? Guardi, non ci avevo pensato, però sì. Secondo me possiamo ragionare su questo, potrebbe essere un'ottima idea, perché altrimenti se non lo mettiamo nel decreto di aprile poi dopo sarebbe tardi. Questo può essere un'idea assolutamente buona. Quindi, e poi le associazioni chiedono infrastrutture di emergenza, cioè delle, come dire, delle ciclabili che in altri paesi stanno... Sì, ecco, volevo arrivare anche lì, sì, perché insomma intanto perché con un po' di orgoglio devo dire che nella legislatura precedente e in questa abbiamo fatto una legge sulle piste ciclabili, abbiamo messo dei soldi, insomma penso di poter dire che non siamo all'anno zero. Sarebbe giusto prendere, anzi sarà sicuramente preso in considerazione inevitabilmente questo appello delle associazioni a pensare a creare piste ciclabili laddove non ci sono, anche con spesa non elevatissima, per cui anche questa mi pare un'idea assolutamente positiva. E quindi lei dice già insomma delle misure potrebbero essere già adottate nei prossimi provvedimenti? Sì, ci proviamo. Sicuramente ci dovrà essere una svolta culturale più forte, però ribadisco che non siamo all'anno zero, insomma la ciclabilità è molto cresciuta negli ultimi anni anche in virtù delle politiche nazionali. Dovrà essere incentivata ancora di più, secondo me sarà inevitabile che così sia e quindi è giusto tenerne conto anche nelle misure legislative, ne sono d'accordo con lei. Insomma, poca attenzione finora alle bici, tant'è che in quarantena le ciclofficine non sono state considerate nei servizi essenziali, hanno potuto riaprire quelle che poi lo hanno dovuto dimostrare, ma tant'è, in Italia spesso la bici come mezzo di trasporto non viene considerata con la dovuta attenzione. Vediamo allora cosa accade a Londra. Giulio Ferrini, ingegnere pisano, capo del Dipartimento di Urbanistica di Sustrans, l'associazione che promuove la mobilità dolce nel Regno Unito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, qual è la situazione nel Regno Unito? Ho fatto questa premessa insomma sul nostro paese, dove di fatto insomma è poco utilizzata durante questo periodo di quarantena. A Londra qual è la situazione? Qua devo dire che sia per la mobilità, per i trasporti, che per diciamo l'attività fisica è sicuramente il mezzo diciamo più consigliato sia dal governo, che in pratica è stato quello più diciamo cercato dalle persone in questo momento in cui sicuramente bisogna muoversi in un certo modo, distanziati da altre persone. C'è stato un grande aumento nelle ciclofficine di acquisti di biciclette e si vedono veramente a Londra tantissime persone che solitamente non si vedono andare in bicicletta. Con il volume di traffico ridotto c'è stata veramente un'esplosione di tutti i tipi di persone in bicicletta. E quindi ci sono anche state delle iniziative per promuovere la bici, non so, anche il bike sharing di Londra, c'è stata anche una mobilitazione in questo senso? Assolutamente sì, quindi Transport for London, che è l'ente locale, quasi immediatamente ha messo a disposizione gratuitamente le proprie biciclette condivise per i key workers, quindi lavoratori in ospedali e altri settori che sono ancora aperti, ed è stata seguita in realtà da anche i bike sharing privati, Jump di Uber, Barrel, che anche altri diciamo enti che operano questi bike sharing systems hanno messo a disposizione le proprie bici gratuitamente, ed sono state seguite anche da altre grandi imprese come Brompton, che hanno donato 500 biciclette agli ospedali per essere utilizzate in questo periodo. Quindi sì, c'è stata diciamo tutta l'industria della bicicletta si è unita nel sostegno delle nuove persone che vogliono andare in bicicletta. Tutto ciò fa supporre che poi anche nella fase 2, quando insomma poi dopo ci si potrà muovere più liberamente, la bici verrà promossa. In teoria sì, devo dire ci sarà un momento un po' di difficoltà, perché diciamo comunque la percentuale di persone che vanno in bici a Londra è comunque molto bassa, la stragrande maggioranza gira con i trasporti pubblici e per tante persone adesso le strade sono vuote, le strade sono sicure, quindi ci saranno, secondo me ci sarà il bisogno di mettere infrastruttura temporanea per mantenere diciamo questi nuovi entusiasti della bicicletta sulle due ruote, quindi ci sarà un bisogno di fare di più che semplicemente dare le biciclette alle persone. Ma queste infrastrutture temporanee, dicevi, o questi diciamo questi interventi, quali potrebbero essere? C'è stata una spinta notevole negli ultimi giorni per cercare di seguire diciamo quello che hanno fatto in molte città, sia in America che in Nuova Zelanda che a Vancouver, anche a Berlino queste sì, diciamo, infrastrutture d'emergenza che provano a limitare, diciamo, a creare spazi sicuri per andare in bicicletta prendendo zone ad accesso limitato, oppure provando proprio a mettere, diciamo, piste ciclabili protette. Quindi secondo me è veramente un'opportunità per mettere in piedi questa infrastruttura e poi poco a poco, diciamo, convertirla in infrastruttura permanente. Quindi ci possono, insomma, anche essere interventi a basso costo e anche immediati, no? Secondo me sì, cioè, diciamo, gli interventi a basso costo bisogna stare attenti, secondo me è facile vedere la soluzione, non lo so, ho visto a Berlino delle piste ciclabili che sono state dipinte più ampie, a Londra sicuramente sappiamo che una striscia dipinta sull'asfalto non è protezione per i ciclisti, quindi bisogna stare attenti, secondo me, a garantire comunque la qualità, perché se stiamo incoraggiando persone che non sono abituate ad andare in bicicletta su strade con tante macchine, bisogna dargli una vera sicurezza, non solo una percezione di sicurezza, perché altrimenti c'è veramente un pericolo che tante persone mettono la propria sicurezza a rischio. E questa, diciamo, è stata la linea che per adesso ha preso il sindaco di Londra, dicendo: noi metteremo solo piste d'emergenza quando sapremo farle in modo sicuro. E noi ci fermiamo qui, vi lasciamo con una quartina di Alessandro Ricci, grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica, buona domenica, ciao! In città un grandissimo silenzio, stordisce come se fosse assenzio, prudono le dita sul campanello che risuonerà nel giorno più bello. Alessandro Ricci, la quarantena per il verso giusto.